Benvenuti a tutti, puntata numero 11 di NBA Week, la trasmissione settimanale sulla stagione NBA 2016-2017 su Radio Big World. Il numero 11 è per il sottoscritto un numero speciale di quelli che casualmente entrano a volte nella tua vita e che, in un modo o nell'altro, ti influenzano il presente. Io personalmente scelsi l'11 al tempo dell'uscita dal mini basket, quando ti dicono si inizia a fare sul serio. Ho giocato dai 6 ai 19 anni nel centro sportivo Alberto Galli di San Giovanni Valdarno in Toscana e in quegli anni in cui si poteva iniziare finalmente a scegliere un numero di maglia, giocava nella prima squadra, ai tempi in categoria B1, un centro che forse fisicamente era più una alla grande, a mio avviso di livello superiore. Si chiamava Andrea Scempini e giocava con il numero 11. Aveva un tiro dalla media strepitoso, degli ottimi movimenti in pivot basso, tirava giù una discreta quantità di rimbalzi e ogni tanto schiacciava a due mani. Non era poco per quella categoria e soprattutto per me che ero poco più che bambino. Era il mio idolo ai tempi e per questo scelsi l'11, portandomelo dietro per un bel po' in quella che potrei definire la mia carriera di giocatore. Quando 3 anni fa sono tornato a giocare la mia prima e ultima partita delle minors, dopo quasi 10 anni di stop, nella quale mi infortunai all'osso sacro per poi infortunarmi in seguito al crociato e appendere le scappette a chiodo, scelsi il numero 22, visto che sembrava fosse passata un'altra vita rispetto al mio ultimo match giovanile. Un 11 alla seconda, quindi, che però non mi ha ovviamente portato benissimo. L'11, invece, come numero secco, mi ha influenzato e mi influenza tuttora. Non per nulla 11 è anche il nome del mio blog, ma questa era comunque una rimembranza personale che lascia il tempo che trova e che forse non vi interesserà assolutamente. Colgo però l'occasione e il numero della puntata per dedicarla a Andrea Scempini, che sicuramente non la starà ascoltando. Magari se qualcuno lo conosce lo può pure avvisare. Non so che fine abbia fatto, mi dicevano che ancora sta giocando, presumibilmente nonostante una signorile età. Iniziamo però con il mashup della settimana, torniamo a parlare di NBA, che è la cosa che è centrale in questa trasmissione settimanale. Si parte dal 25 di gennaio. LeBron James e Cleveland Cavaliers perdono in casa contro Cousins e i suoi Sacramento Kings. Il re va in tripla doppia con 24 punti, 13 rimbalzi e 11 assist, ma non basta. Quasi tripla doppia per Cousins con 29 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. Della settimana di LeBron ne parleremo poi più avanti. 38 punti, 5 rimbalzi e 9 assist invece per Isaiah Thomas, che sfida un James Harden che chiude con 30 punti, 6 rimbalzi e 12 assist. Sfida godibile tra due ispiratissimi protagonisti della stagione in corso in una partita che i Celtics vincono in casa per 120-109. 42 punti per Marc Gasol nella vittoria dei Grizzlies sui Raptors 101-99. Tripla doppia per Westbrook con 27 punti, 12 rimbalzi e 10 assist nella vittoria sui Pelicans. 40 punti di Jimmy Butler, che non bastano ai Bulls per sconfiggere gli Atlanta Hawks di uno Schroeder da 24 punti. E infine vittoria degli Warriors su Charlotte con 33 punti di Durant e 28 punti con 6 triple di Stephen Curry. 26 gennaio, le statistiche di Russell Westbrook nella vittoria di OKC contro i Mavs. Non va in tripla doppia e questa è una notizia. Chiude però con 45 punti, ma con solo 8 rimbalzi e 3 assist. Solo è ovviamente un eufemismo, anche se effettivamente 3 assist sono pochi per colui che tiene in mano la palla quasi sempre nelle file dei Thunders. 31 punti anche per Harrison Barnes, uno di quelli che effettivamente è in lizza quantomeno per il Most Improved Player della stagione. Bella prova nella notte invece per Nikola Jokic, che chiude con 29 punti e 14 rimbalzi aggiungendo 8 assist, sconfiggendo con i suoi Nuggets i Phoenix Suns. Stesso discorso per Karl Anthony Towns, che ne mette 33 e 10 rimbalzi, ma i Timberwolves perdono contro i Pacers di un Teague da 20 punti, 8 rimbalzi e 13 assist. 27 gennaio, iniziamo dalla prestazione della settimana. Il protagonista è il signor James Harden, che nella sfida contro i 76ers gioca una partita stellare. 16 su 28 dal campo, 6 su 11 da 3, 13 rimbalzi, 13 assist, 2 recuperi, 1 stoppata e 51 punti. Mostruoso veramente nella sfida che i Rockets portano a casa per 123-118. Oltre al Barba ci sarebbero anche 21 punti per Ariza e 17 per Capela. Dall'altra parte, ottima prestazione di Joel Embiid con 32 punti in 28 minuti. I Blazers battono 112-109 i Grizzlies. Occhio a Damian Lillard, fresco di esclusione dalla partita delle stelle come lo scorso anno, potrebbe scatenare tutta la sua rabbia in campo. Giocatore da tenere assolutamente sott'occhio, potenzialmente tra i più forti della Lega, evidentemente sottovalutato come raramente è capitato ad un talento simile. In questa partita ne mette 33 con 5 triple. Dall'altra parte segnaliamo i 32 di uno che meritatamente all'All-Star Game ci andrà, protagonista ad oggi di una stagione splendida. Si tratta di Marc Gasol. I Knicks invece battono gli Hornets di un Kemba Walker da 31 punti, grazie ad una prestazione corale. 18 per Anthony, 18 per Porzingis, 13 per Rose, 16 per Connelly e 15 per Jennings dalla panchina. Vincono anche i Cavs in casa contro i Brooklyn. Per il re LeBron James ci sono 31 punti e 12 assist. Si parla ovviamente di una sfida 2 per l'MVP stagionale tra Westbrook e Harden, ma è probabilmente giunta l'ora di considerare anche la stagione di LeBron. Oltre all'impatto e all'apparente dominio sul gioco che ostenta ogni volta che scende in campo o gestisce un pallone, ha delle medie di tutto rispetto: 26 punti di media, 8.5 assist circa e circa 8 rimbalzi a partita. Va vicinissimo alla tripla doppia di media anche lui. Andiamo avanti, 28 gennaio, Steph Curry gioca una di quelle partite incredibili alla Steph Curry contro i Clippers. Una roba anche questa da prestazione della settimana. Golden State segna 144 punti di squadra. Curry esce dalla partita alla fine del terzo quarto per un minutaggio totale di 28 minuti. Le sue cifre in questo tempo sono 15 su 23 dal campo con 9 su 15 da 3 punti, 6 assist, 9 rimbalzi per un totale di 43 punti. Una di quelle partite in cui il canestro per Curry sembra davvero una vasca da bagno, impreziosita anche dal consueto tiro da centrocampo allo scadere del secondo quarto, ovviamente canestro. Golden State tira con il 62% di squadra dal campo e il 50% da 3, con 35 assist totale di squadra. I Clippers escono dalla partita velocemente, del resto gli Warriors segnano 41 punti nel secondo periodo e 45 nel terzo periodo, complici le fiammate di Curry che aprono parziali destinati a non rimarginarsi con quel ritmo di gioco sostenuto. Nella stessa notte, il Gallo invece ne mette 32 con 8 rimbalzi nella vittoria di Denver su una Phoenix che ha tra le sue fila un Bledsoe da 41 punti. 37 con 13 rimbalzi anche per Karl-Anthony Towns nella vittoria dei Timberwolves contro i poveri Nets. Ricordiamolo, questo ragazzo non giocherà all'All-Star Game a vantaggio di DeAndre Jordan. Con tutto il rispetto per il centro dei Clippers, parliamone. 29 di gennaio, è domenica sera ed è anche il mio compleanno della serie Chi se ne frega. La prima partita in cartello è tra Hawks e Knicks. Ce ne saranno molte altre, ma noi ne abbiamo visionate principalmente due. Questa si chiude dopo la bellezza di 4 tempi supplementari per 142-139 per gli Hawks. Si tratta di un'autentica odissea dove le due squadre si rincorrono con tiri del pareggio praticamente allo scadere di ogni quarto possibile e immaginabili per fermarsi appunto al quarto overtime. Carmelo Anthony chiude con 45 punti e dopo essere stato recentemente fischiato dal pubblico del Garden gioca fuori casa una signora partita, lottando fino all'ultimo per riacciuffare gli Hawks. Gioca 46 minuti e chiude anche con 6 rimbalzi e 4 assist. 17 punti per Courtney Lee, decisivo con uno dei tanti canestri che manderanno il match a uno dei vari supplementari. Prestazione di cuore da segnalare anche per Brandon Jennings, che chiude con 18 punti finali. Delude invece Porzingis, a parte uno schiaccione in traffico che potrete vedere negli highlights, chiude alla fine con solo 15 punti. Dall'altra parte, il solito, infinito e incosciente cuore di Schroeder, che chiude con 23 punti, 15 assist, e la super prestazione di Paul Millsap, 37 punti, 19 rimbalzi e 7 assist. Diciamoci la verità, la sua chiamata alla partita delle stelle è assolutamente meritata a mio avviso. Il punto è capire se subito dopo quella, Millsap lascerà Atlanta o meno. Se succedesse sarebbe un discreto colpo per chiunque sia in pole position eventualmente per prenderselo. Nella stessa notte c'è anche la sfida tra OKC e Golden State, sfida che si riassume tutta con la statistica delle percentuali di tiro di Westbrook e compagni. 37% dal campo, 23% da 3 con 6 su 26. Westbrook riesce a chiudere in tripla doppia malgrado che i suoi compagni, e per la verità anche lui, non segnino praticamente mai. Chiude con 7 su 26 dal campo, 20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist. 10 assist, come detto, un'impresa. OKC si presenta in avvio di quarto periodo riportandosi a meno 7, ma da lì la via del canestro ritorna oscura e la gara si incanala nel binario già scritto dell'ennesima vittoria casalinga dei Cavs, per la verità in un periodo piuttosto nervoso e di difficoltà. In casa dei campioni, serata d'ordinaria amministrazione per LeBron James con 25 punti, 14 rimbalzi e 8 assist. Irving chiude con 29 punti e 10 assist. Bellissima prova di Tristan Thompson con 19 punti e 12 rimbalzi. 16 punti con 5 su 8 da 3 anche per Imam Shumpert. 30 gennaio, 49 punti di uno strepitoso DeMarcus Cousins nella sconfitta per 119-122 dei Kings a Philadelphia, che malgrado l'assenza di Embiid continua a vincere giocando di squadra, portando in questa partita 7 giocatori in doppia cifra con un Covington da 23 punti e 10 rimbalzi. 41 punti nella notte anche per Isaiah Thomas nella vittoria dei Celtics sui Pistons di un Drummond da 28 punti e 22 rimbalzi. Cleveland perde a Dallas e il momento di flessione non sembra avere apparente fine. anche se va considerato il possibile momento di break mentale di metà stagione, la situazione per cui la squadra che si avvicina alla pausa per l'All-Star Game tende a rilassarsi, soprattutto in partite apparentemente meno di cartello. Tra l'altro, a voler essere cospirazionisti, forse può anche esserci una piccola volontà di porre in evidenza i limiti di roster per giungere ai colpi di mercati tanto voluti e sponsorizzati da LeBron James stesso. Fatto sta che anche in questa partita LeBron gioca tanto, 37 minuti, e questa è una cosa che Tyronn Lue deve risolvere soprattutto nella seconda metà di stagione per evitare di averlo stanco e logorato ai playoff. Chiude in quasi tripla doppia perché chiude con 23 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. Il suo lo farebbe ampiamente, ma mancano le percentuali del resto del team. Dall'altra parte, Dallas, con 4 giocatori del quintetto in doppia cifra, eccetto Nowitzki, chiude con 8 punti, ha tra le sue file il solito Harrison Barnes da 24 e 11 rimbalzi e un Wesley Matthews da 21. 16 anche per Seth Curry. Dallas la vince 104-97. Il vaso sembra stracolmo, tanto che LeBron James si permette anche di rispondere per le rime all'ennesima provocazione nei media di Charles Barkley, uno che ha basato la sua carriera di giocatore prima e di commentatore televisivo poi proprio sulla provocazione. Sir Charles si è permesso in settimana di criticare pesantemente l'atteggiamento di LeBron verso la società di Cleveland, considerando proprio le pressanti richieste, note a tutti, per l'acquisto di un playmaker di LeBron esagerate. Io ho sempre rispettato il gioco, Barkley non deve permettersi di mancarmi di rispetto, è l'argomentazione molto riassunta della furia del re, che non ha certo lesinato esempi rispetto a certi atteggiamenti che hanno caratterizzato la carriera di Barkley giocatore, tralasciando, forse per dimenticanza, le notti alcoliche per le Rambla di Barcellona ai tempi del Dream Team, a mio avviso la parte più leggendaria del Barkley giocatore, che se non erro, malgrado le sbornie prese per strada con la gente di Barcellona, riuscì anche a essere il miglior giocatore di quelle Olimpiadi e indubbiamente il miglior marcatore della competizione. Chiudiamo comunque questo episodio e chiudiamo anche il resoconto della notte del 30 gennaio citando anche la super prestazione di Conley nei bipolarissimi Memphis Grizzlies, che battono i Phoenix Suns con 38 punti, 6 rimbalzi, 9 assist proprio di Conley stesso. 31 gennaio, ultima notte del mese, crisi nera per i New York Knicks che perdono anche stanotte contro i Wizards di un Bradley Beal da 28 punti, 26 per un Anthony in cerca di destinazione, avendo nel contratto una clausola che gli permette di rifiutare le destinazioni non gradite e avendo dichiarato gradite solo l'improbabile approdo a Cleveland e i Los Angeles Clippers. È notizia però di ieri che il nostro Melo abbia fatto una minima marcia indietro, dichiarando che nella lista dei probabili approdi ci sarebbe anche Boston, il che non sarebbe assolutamente male, se non che Danny Ainge, che è il general manager dei Celtics, pare proprio non volerlo al momento, a causa del rischio che possa intaccare una chimica di squadra piuttosto funzionale. 36 punti, 31 gennaio sempre, per un Kawhi Leonard che trascina gli Spurs alla vittoria contro i Thunders di un Russell Westbrook anche stavolta non in tripla doppia, che chiude comunque con 27 punti, 6 rimbalzi e 14 assist. Infine, da citare, la vittoria dei giovani Lakers sui Denver Nuggets con 22 punti e 10 rimbalzi di D'Angelo Russell, 23 di Nick Young con 5 su 8 da 3. Il nostro Danilo Gallinari chiude con 17 punti. Andiamo avanti velocemente e passiamo alla rimembranza della settimana. Questa settimana andiamo al 14 giugno del 1998. Siamo a Salt Lake City, il momento è tra i più famosi, belli e probabilmente visti della storia della Lega. Eccolo qua, prima di iniziare a raccontarlo, nella meraviglia del commento originale e in diretta di Flavio Tranquillo e Federico Buffa, nei 42 secondi più leggendari probabilmente di sempre. Ultimi 40 secondi, Jordan va subito a canestro, appoggia al vetro anche con contatto e segna in un amen, riportando a meno uno Chicago, discrepanza di circa 13 secondi tra il cronometro dei 24 e quello della partita. Chicago non vuole prendere un gioco da tre punti, vuole eventualmente la palla anche se segna aiuta per il pareggio, a sua volta con un gioco da tre punti la ruba Jordan e se lo prende direttamente dalle mani di Malone. Ultimi 15 secondi, meno uno Chicago, il palleggio per Michael Jordan che ha spazio, tutti lo aspettano, può essere l'ultima azione della sua carriera NBA, arresto, tiro Jordan, Jordan, Michael, Jeffrey, Jordan! Signori che giocata, ancora una volta gli concede una penetrazione senza nessuno dietro, poi è andato a prendersi lui il pallone e ha segnato, segnando il 4-0 di parziale. MJ 5-2 da giocare, adesso uscirà Kerr per Harper e i Bulls sono a 5 secondi dal repeat e tripeat. Come siamo arrivati fino a qui? fino a questi ultimi 41.9 secondi di gara 6 di NBA Finals. Chicago è a caccia del secondo three-peat in una situazione paradossale che ha tenuto banco per tutta la stagione regolare, chiusa comunque con un record di 62 vinte e 20 perse, di prepotenza pura oltre che di esperienza. A fine anno la dirigenza non rinnoverà il contratto del coach Phil Jackson. Scottie Pippen deciderà di gettarsi nel mercato dei free agent per cercare una seconda vita extra Bulls. Michael Jordan si ritirerà. La sensazione è che Jordan abbandonerà il gioco quasi controvoglia, ma solo ed esclusivamente per solidarietà verso il suo coach e per l'apice di discordanza raggiunto con i due Jerry che rappresentano l'establishment dei Bulls, Jerry Krause e Jerry Reinsdorf. I Bulls sono quindi all'ultima danza dichiarata e la cosa fa un po' senso a tutti, anche perché sembra che nel nome di una ricostruzione che poi effettivamente tarderà tremendamente ad arrivare per i Tori dell'Illinois, si forzi la fine di una dinastia che ancora non sembrava essere neanche vicina a una conclusione naturale e fisica. Giunti ai playoff, Jordan e i Bulls dribblano piuttosto tranquillamente i primi due turni contro New Jersey e Charlotte Hornets, per sudare copiosamente invece contro gli Indiana Pacers di Reggie Miller in finale di conference, vinta soltanto alla settima partita. Arrivati all'atto conclusivo, stanchi e un po' indolenziti per l'età e per lo sforzo, i Bulls trovano ad attenderli, di nuovo come l'anno precedente, gli Utah Jazz di John Stockton e Karl Malone, quest'anno più sicuri e determinati e, tra l'altro, con il vantaggio campo dopo l'esperienza maturata nelle finals precedenti. I Jets arrivano in finale apparentemente in tranquillità, spazzando via i Lakers di Shaq con un netto sweep in finale di conference e di fatto soffrendo soltanto al primo turno contro gli Houston Rockets che battono in 5 partite. Gara 1 di finale finisce in volata e a Salt Lake City i Jets se la portano a casa. In gara 2 i Bulls riequilibrano la serie per poi tornare a casa e mettere il turbo. Si va sul 3-1 e gara 5 sembra quella decisiva. Un super Malone in trasferta forza però la sesta partita, malgrado una prestazione da star di domani di Tony Kukoc, che non diventerà in realtà una star di domani, e un ultimo disperato tiro tentativo di Jordan che se fosse entrato l'avrebbe consegnato nella leggenda della pallacanestro. Nessun problema però, perché a consegnarlo alla leggenda ci penserà la gara seguente. Siamo a Salt Lake City quindi per gara 6. Utah ha tutti i favori del pronostico, tutto il mondo vuol vedere vincere i Jazz per forzare una gara 7 che sarebbe storica, visto che Jordan e Bulls non sono mai stati spinti tanto in là in una serie finale delle 5 giocate precedentemente. Nella prima azione, o una delle prime, Scottie Pippen va a schiacciare e si strappa la schiena. Aveva dichiarato che sarebbe stata la sua ultima gara in maglia Bulls, ovviamente in caso di vittoria. Adesso è costretto ad uscire dalla partita e rinchiudersi dolorante negli spogliatoi, stringerà i denti per tornare nel terzo periodo. Con un Pippen a meno di mezzo servizio serve un super Michael. Nel secondo quarto battaglia con Malone canestro dopo canestro. Le due squadre si picchiano, lottano, si rincorrono fino alle ultimissime azioni. Jordan spende tantissimo, trascina la squadra quasi da solo e nell'ultimo quarto la stanchezza si fa necessariamente sentire, tanto che sbaglia qualche tiro di troppo. Si entra così nell'ultimo minuto con i Jazz sul più uno. Malone lavora in post basso, spalle al canestro su Dennis Rodman. Serve sul lato debole Stockton per la tripla del più 4, solo rete. Utah è a più 4 a 41.9 secondi dalla fine, il Delta Center esplode, tutto il mondo si prepara a una gara 7 che potrebbe essere letale per i Bulls, una situazione che demolirebbe l'autostima e la fiducia di chiunque, soprattutto quella di una squadra tutto sommato vecchia, stanca, provata da una stagione lunga e caratterizzata anche da polemiche e tensioni. Ed è qui che si vede il migliore di sempre, è qui che il più grande prende in mano una squadra, una serie, una stagione e anche il suo destino. Quello che segue a questo punto è quello che avete ascoltato all'inizio della rimembranza della settimana, raccontato in diretta da Tranquillo e Buffa. Si tratta del momento di sport più bello che ricordo di aver vissuto, seppur indifferita in vita mia. Al tempo avevo 14 anni e non ricordo esattamente dove dovessi andare quella mattina. Presumibilmente a scuola, considerando la data, probabilmente per fare una delle prime prove dell'esame di terza media. Non certo qualcosa di difficile, ma sicuramente qualcosa di abbastanza traumatico per il momento. Ricordo di aver registrato la partita su un VHS, con l'intento di rivedermelo poi nel pomeriggio seguente senza sapere il risultato una volta rientrato a casa. Appena alzato però, la curiosità era troppo grande. I Bulls erano campioni? Avrei visto una gara 7 di Finals? Ovviamente al tempo internet era agli albori, non esistevano gli smartphone che oggi ogni mattina mi aggiornano con ogni notifica dei risultati della notte. Decisi quindi di riavvolgere il nastro e di vedermi l'ultimo minuto di partita. Un'idea profetica, diciamo quasi da sensitivo. Avrei potuto cliccare play e trovarmi di fronte ad un minuto di partita dal risultato acquisito. Invece mi trovai a vedere questo momento storico mentre stavo vestendomi per uscire, quasi totalmente ipnotizzato. E ricordo che al canestro decisivo di Jordan, quello a seguito del quale resta con il polso spezzato in posizione statuaria per congelare l'apice probabilmente della sua carriera, mi ricordo che probabilmente avevo i pantaloni messi per metà e la maglietta, che sicuramente sarà stata una di qualsiasi altra squadra NBA se non proprio dei Bulls, inserita per un braccio sì e per un braccio no. Ricordo che al canestro iniziai a saltare e ad esultare come un grillo, pensate, la mattina probabilmente alle 8 se non alle 7 e mezzo, i miei genitori appena alzati entrarono nella stanza e mi videro saltare ed esultare guardandomi ovviamente come se fossi un matto. In quel periodo lì ero veramente malato di NBA, erano gli anni in cui appunto si è creata questa grande passione che oggi provo in maniera molto molto dilettantistica a rimettere attraverso questa trasmissione in podcasting. Benissimo, siamo andati avanti sforando tantissimo, abbiamo superato i 20 minuti, gli appuntamenti sono sempre i soliti, li dico: tutti i giovedì sera NBA Week in diretta nel flusso streaming di Radio Big World alle 21.30, il venerdì mattina la trovate scaricabile nel SoundCloud di Radio Big World e visibile nel YouTube, nel canale YouTube di Belli 13, con un video impreziosito appunto dalle immagini di Belli 13 sopra l'audio che state ascoltando. Se volete, il venerdì mattina nel nostro blog medium.com/NBA Week, un blog post settimanale che raccoglie la selezione degli highlights, dei migliori highlights e delle partite di cui abbiamo parlato in questa puntata, oltre anche alla possibilità di rivedervi interamente con il commento in italiano su YouTube la rimembranza della settimana di cui abbiamo appena discusso, la gara 6 di finale del 98, una delle partite a mio avviso più belle di sempre, personalmente anche per i ricordi emozionali, la mia partita preferita di sempre, mettiamola in questo modo. Benissimo, grazie ancora per l'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana su Radio Big World o su YouTube se volete, comunque su NBA Week. It's over. It's over.